Per chi non mi conosce, mi chiamo Rina, coste liriche ed ho scosse. Lotte, forse perse in partenza. So contro di chi fa con indifferenza. Quality bastard, questo è il mio marchio. Dalla difesa sai che passa contrattacco. Do distacco ad ogni vigliacco che cerca un contatto con un suo ricatto. Combatto contro ogni ingiustizia, con chi non crede nell'amicizia, con chi scambia la malizia per furbizia, ingannando qualsiasi perizia. Faccio bene io che non cambio tattica, uso le mie rime a raffica, contro chi solo stronzate mastica, lasciando tessore di plastica, bazzica nelle mie zone. Qui la situazione non è la migliore, è grazie al mio onore che non faccio disertore, e trovo il verso giusto anche nella disperazione. Sono qui che scrivo, senti su un beat che ti combino. Sono attivo, operativo, su questa strada a piedi nudi cammino. Sono qui che scrivo, quality bastard il motivo per cui vivo. Descrivo ciò che respiro, e per questo con l'hip hop continuo. Continuo e sai che non mi fermo, l'hip hop nel mio cervello è tipo un perno, che gira e gira e non si ferma, e queste liriche ne sono la conferma. Nella mia terra, in Francia o in Germania, non mi son fermato, ho continuato con sta smania. Strana, sta vita quotidiana, qui ti trovi faccia a faccia con la mala, e non si sa quando tutto passa, tra problemi di superiore stazza, tra influenze strane della massa, lascia che di te non rida questa piazza, e non si sa quando tutto passa, tra problemi di superiore stazza, tra influenze strane della massa, sono qui e questo mi basta.